essere chissà vedere una casa tua, chissà chi non anda. Negativo, negativo al massimo. No, no, e comunque è bassa. Ma quella era appena a 6 arriva. Eia, eia, c'è pizza, sento la profumo. Adesso non sto a mangiare pizza a tutti. E mandica. No, capito. Bisogna che mi regoli un po' perché in questi giorni ho mangiato. Quel giorno lì era l'unico giorno che, cioè, dopo tanto tempo che stavo mangiando affettato. Di solito io non sto più mangiando. Ma io la pizza la dico una cosa, a me mi piace un bel burro di saltaglio, ma la faccio con un'insalata di mare, ma tanto è buona. Ulla, ulla, cambia, cambia, cambia. Oh. figurati chi la vende. Non manco ci sto pensando, guarda. Su che si rulla, tornare Giuseppe, a chi sei e a chi fai, cambia. Sto qua di più pure, un'apertura, eh. Allora dai. Esatto. Che è sto per di più? Non lo fa bloccare di più anche in apertura, se tu senti bene. Andiamo bene. Già fatto bene. Così è. E ora non passo. Tanto l'ho provato del radio, ho chiesto, ma nel tuo radio limpida, chiara. Adesso usiamo un po' questo qui per la propagazione, va. Anche se il canale non ne va meno, eh. Ma le chi è a manetta ce l'ha di quell'apparizione? Tappa. No, già va bene, già, come radio. Perché di radio basso sto scemo? Ora guarda, 1, 2, 3, prova, prova. Oh, va bene, va bene. Poi per darsi che era rimosso, involontariamente, adesso guarda. Già, ragazzi, no, è buona, già, va la grande qua, però. Mosso là, No, no, è giusto là. Non ho toccato niente perché è giusto. Ora, ora, ora, prova, ora, 2, 3, prova. Adesso faccio nella voce così, 1, 2, 3, prova. Ma è uguale all'altro. Ma tu l'altro giorno mi stavi dicendo che c'era la mascherina americana. Ma oltre a quella che c'ha normalmente sopra, posizionata, c'è anche quella americana. È uguale identico all'altro, solo che invece che la luce rossa la fa arancione. Quando parlo invece che rossa è arancione, poi tutto il resto è uguale. Tutto blu, eccetera, eccetera, come l'altro, uguale. È bello. L'australiano era, l'australiano, avanti. Paita. Ma la tenuta parlamentare. Guarda, quando c'è propagazione 45 di verità. Poi c'è un po' di province, mi abbiamo collegato. Napoli, Sicilia, Calabria. Vicino a Empoli, Empoli, Cava dei Tirreni, di tutto era. Un po' di bailame pure. Non so, perché non hanno ordine, i camionisti fanno così, non hanno ordine facendo le cose, chi è più forte passa. Il problema è anche un altro, il problema è che ci sono molte province, molti posti, e quindi è logicamente che il bailame, poi alla fine è più forte passa veramente, perché va più cavati sotto. Che mi ha detto? Mi ha detto, qua ti potete scendere, fatti gli affari tuoi, mi ha detto. Sì, perché è così, ma no. Però anche la ragione. Tant'è vero che uno mi ha chiesto di dire all'amico che era dietro di lui, non riusciva a sentirlo, mi ha chiesto di fare da ponte, gli ho fatto un ponte da Sassari, seguito era vicino a Coso, vicino a, non a Palermo, a Lucca. Perché lo sai perché anche, perché come siamo un'isola, per com'è la configurazione che rispecchia tra il cielo e il mare. Le onde come rispecchiano, perché tramite il cielo fanno onda, e praticamente noi possiamo essere favorevoli per molte propagazioni, ma loro no, perché anche nelle frontiere il propagato, forse che loro addirittura non riescono a sentirsi che cosa ne so, Salerno con Napoli. Sì, è vero. Ma noi ci sentivamo fortissimi tutti, ci diciamo avanti tutti i gatti. Dipende da anche da dove è più aperta la ruota, dove può essere aperta tra quante, quando è quella bella proprio. Da una volta poi va anche a sottigliarsi, magari una donna riceve di più, l'altra di meno. Addirittura da una volta può essere che tu lo ricevi, ma loro no. Beh, certo. È un bel patatrac, ma comunque fa sempre piacere sentire tante regioni. Gappa. Io non so se ti ricordi già, ma vedi che non senti più, ti ricordi anni addietro capitava anche che si collegava anche al Brasile. Sì, il Brasile più di una volta l'ho collegato. Ma lì c'era tanto tempo che non si sente più. Mi pare che l'anno scorso una volta solo si era sentito, non ricordo come era, però il Brasile, Santiago del Cile. No, Santiago del Brasile, gravissima, del Cile. Cile non me lo ricordo, la verità. L'anno scorso c'era stato, che mattina era, me lo ricordo ancora, c'era stato un momento che era anche fortissimo questo qua. Era una bomba, poi non si sentiva prima, io mi ricordo che sentivo molto di più. Poteva essere che hanno dismesso tutte le apparecchiature CB, oppure la propagazione per loro non è più favorevole, questioni anche di atmosfera, inquinamento, di queste cose qua. Non è visto d'ora che chissà nube vulcanica, cazzo, si stava di nuovo spostando, vabbè, questa volta non è che è durato molto, ma comunque era d'ora di passaggio, i rendi. Magari che non arriva più per queste parti qua. Me lo ricordo. Attento fratello! Ti ricordo come ti chiamavano? Attento fratello! Attento Italia, Italia, attento italiano! Pagappa. Bene nei zingari. Comunque sono quelli che si arrangiano di più a parlarlo, nel senso che magari un inglese non si sforza a parlare in italiano, parla la sua lingua e basta, perché noi dobbiamo parlare la lingua loro e loro non parlano la nostra? Punto interrogativo. Perché l'italiano è più difficile, è la lingua internazionale, l'inglese. Ma la cosa dell'italiano è più difficile, lo parlano anche i negretti. Addirittura per parlare di buco di qua da Burusa Sariso, rimani mi da giovito per fare una risata. Stavo andando dall'altra parte delle bancarelle e mi ha fatto, beh, compà, da chi si abbassi devi finire, non da chi devo andare, vedi dai nocchi. Mio marito è sempre in Sassari, gli inglesi gli viene difficile, specialmente agli inglesi viene difficile parlare l'italiano. Sì, ma noi ci sforziamo a parlare la lingua loro, l'inglese è lo stesso per un italiano che non lo sa, è difficile. Noi ci sforziamo a parlarlo, loro non si degnano nemmeno di sforzarsi, parlano la loro lingua molto tranquillamente, se tu lo capisci o okay, se no ti va bene in luce. Hanno anche ragione, la lingua internazionale è facilissimo l'inglese, non c'è altra lingua più facile dell'inglese. Tari, ma poco fa non mi hai capito, ti ho detto non il 10, il 21, e poi lo sei passato, come mai? Perché io non ti ho sentito il 21, sono passato sul 10 e ho due ore chiamandoti. Già me l'ha detto poi che te ne eri andato, me l'ha detto coso, ma come si chiama? K2, mi ha detto, ho sentito la terra se ne stavo andando perché dice che ti ha chiamato, ma che hai detto, si è andato di passare sul 21 poi. Tu sicuramente hai girato subito quando stavo parlando e non menti. Non ti ho sentito, no. Era due ore che ti chiamavo, infatti. Adesso sono passato qua, stavo spazzolando e ti ho sentito qua. Ecco. Avanti. Buonasera. Ciao Antonio, mi hai sentito anche a te, dai. In compagnia di Natalino, di Pierpaolo, di Bommolo. Adesso tu sei togliato di più. Avanti, Antonio. Antonio. E va per chi vuoi. Ciao Gava, saluto a te, Natalino, Pierpaolo, Antonio Bommolo e a tutti gli eventuali ascoltoni. Da questa parte perché trovi super cordialista con la buonasera. Buonasera a tutti, comunque così non sbaglio. Un attimo sto facendo cose. Fai. Cappa. E allora falte. Propagazione, sentito le anni. No, negativo, sto detto non hai salto a barco. Cappa. Ehi. E come mai falte? Sera, dopo sono impegnato al tabacco e sto accendendo così, mi giusto vado lento per ascoltare gli amici, tutto qua. Accultimo, sì. Accultimo, una sorpresa, dai. Purtroppo ho preso l'impegno e devo andare avanti, tutto qua. E loro devono mandare avanti i soldi. Beh, quello è poco ma sicuro. Va avanti, per favore. Sentiamo, buonanotte e buon trabocco per domani, dai. Vanti, Natal House. Che non dobbiamo dire, ciao. Yeah. Ciao, Pierpaolo, buon tutto l'introduzione, dai. Ciao. Quindi lavoro fino a... sto lavorando fino a tardi, così. Allora, purtroppo, va sbagliato l'impegno e dovevo andare avanti a tu, io sono venuto qua. Così è. Cos'è? Lavoro lungo fa? No, cominciamo nella belletta. Ah? Ho pensato di sbocciare a tui, capito? Che non c'erano, e un casino. Sto sabbiando il cartone che c'era. C'era un cartone liscio, sto sabbiando la sabbia, sto scaldando il pannello e sabbiando, insomma, un lavoraccio. Vabbè. Le grondaie, dai, stai mettendo. Non proprio grondaie, va, degli sfociatoi attaccati al capito, diciamo al sottopassione, e detto, dai, giusto perché sennò l'acqua li girava e bagnava tutto, allora sto facendo quel lavoro lì e niente. No, è importante il travaglio, abbiamo tanto travagliare, io mi posso tu travagliendomi. Oltre a quello mi tocca parlare, se butto. Ciao. Ma l'importante è che ci sia le tanto. Poi pazienza per le ore. Ah sì, quello sì. Quello senza ombra di dubbio. L'importante ci sia il tanto che si riesca ad andare avanti, io intanto non bacio le mani che devono baciare i dati. Però quando uno lavora poi si entra la mano in tasca sempre. Sempre è meglio andare a fare picchia c'è il tanto e via. Cavolo, l'importante ci sia lì c'è in tasca tu. Pazienza, purtroppo bisogna essere consapevoli che così, da. Positivo, positivo, le prendi, cioè, immaginate. Scappa, vabbè, dai, quando lo si prende il doppio fa meglio. E invece che ritirati i panni del tuo centro della radina e ritiri due zette, non è meglio. Sì. Sembra che è massacrante, dopo 8 ore in presa, capita, e dopo di andare lì, vabbè, ma purtroppo, ripeto, la scelta mia mi ha preso l'impegno, adesso lo porto avanti, dai, mi apro un altro paio di giorni, poi, e poi si vedrà, tutto qua. Ma solo te lo stai facendo? No, non mi preoccupare, noi siamo in un manovale. Te lo facevi di sabato, lo facevo. Anche di sabato lo sto facendo, ma c'è da smontare il ponteggio, ripiazzarlo in giro dove dobbiamo lavorare, e purtroppo il ponteggio me l'hanno imprestato e anche poco, capito? Allora devo fare una bandetta, smontare il ponteggio, ripiazzare l'altra parte, rifare l'altra bandetta, compagnia bella, capito? Ci vuole il suo tempo. Quando è così, un casino, tocca rimontarlo, ripiazzarlo, ne vuole, mamma mia. Quello è già, se io avessi avuto tutto il giro del perimetro della villa avrei avuto il punteggio giusto, avrei piazzato prima tutto il punteggio e poi avrei operato, capito? Sarebbe stato più facile. In quella maniera devo fare un pezzo per dire 6 metri, 8 metri, smontare e ripiazzare, capito? Tutto qua. Un trabattello ci sarebbe voluto. Sì, c'è anche il trabattello, ma è basso, siccome la villetta è un po' altina, capito? Devo mettere 2,20, 2,5 per esaltezza, 2,20 e mezzo, per poterci arrivare, capito? Il cornicione, se non ci si arrivava. Puoi far camminare, te la spusti con la rotta, devi andare di montare. Sì, c'è anche il trabattello, solo gli hanno prestato sto trabattello, ma un piano solo, e chi ci arriva là, al tetto, lui, un casino. Ma, vabbè, quando non si è attrezzato, se uno è sicuro che il lavoro ce l'ha, si compra un'attrezzatura e... Ma si vecchia, almeno quando deve fare il lavoro c'è attrezzatura, ma se capitano ogni tanto così, come fa a comprare attrezzatura? Esci si risolta. Beh, infatti. Adesso mi ha prestato un collega e mi ha detto Tino, quando finisce il lavoro me lo restituisci. Adesso mi devo dare da fare perché lui ha preso un altro lavoro e gli serve il ponteggio, mi ha detto, ce la fai, questa settimana finito. Che mi serve anche il ponteggio, ed è così, allora mi sto andando a fare la sera quando esco al lavoro, 3 ore me le faccio la sera fino a fare buio e cerchiamo di andare avanti, va. Mi sa che vedi la casa per le rampate di ponteggio, lo sai grande? Sì, posso immaginare, lo so, però purtroppo ha detto che cresce grosso qui. Di quella ditta che va preso Sassa di 2, no? Buono. Quella ditta che va preso Sassa di 2 e poi come si dice, si era scappato il costruttore Guidinato. Un benedicente pagando il mutuo si rimaneva. No. Ce l'ho sentito, mi pare che era una ditta napoletana, se non vado errato, la maniata. E poi l'hanno messa all'asta, non l'ha presa un'altra ditta e l'ha finita. Sì, ma considera che la gente ha parlato 2 volte. Lo so. C'era anche uno che si è andato da qua. Aveva quasi finito di pagare la casa. Ne mancavano, mi pare, un anno. Ha pigliato, ha venduto tutto, con quei soldi che le ha venduto ha pagato quell'anno che doveva pagare e l'ha estinto il mutuo. E dopo si è preso con la casa e lui era ben contento, c'è garage, c'è tutto quanto, noi abbiamo solo il posto macchina, qua c'è cantina, vecchio e là. Noi l'avevamo acciappato in strada e ci ha detto, ma le ho fatto che me ne sono andato a quel posto. Dato tutti i soldi del mutuo, tutto quanto, come ho venduto, gli ho dato i soldi, e chi se ne è fuggito, e ci ha lasciato senza casa, adesso siamo la mia suocera, perché non sappiamo dove andare, con 2 figli pure. C'è, quanta famiglia rovinata, presa di mamma, guarda, non ci sono parole veramente, ma... una bella rivoltella, non c'era. E se ne è fuggito pure, tanto mica si fa trovare quello. Ci ha ritirato tutti i soldi del mutuo della gente, e te immaginate quanta gente c'era in 2 o 3 parti che erano. Come ti sei ritirato di Napoli? Il mutuo è sbagliato secondo me che lo facevano pagare a lui. Io il mutuo mio andavo e me lo pagavo io in banca. No, no, non bisogna dargliela in mano a questa gente qua. Questa gente delinquente, no, assolutamente no, si può dare in mano, mutuo vai te lo paghi, anche la giornata libera prendo, però vado lo faccio io. Io se non andavo io andavo a Liliana, andavo e lo pagavo, non c'era problema, era un ben alzata perché erano 500 euro al mese che dovevi mettere. Qua alla fine ne ha vinto, puoi respirare. Certo che questa gente qua se ne bisognerebbe sapere dove è e tirare un colpo in testa, perché non merita di esistere. Avete un metale di nai, no, che non fa la banca, mi fa la segno, che sia buono, che altrimenti si tiro, o altrimenti sono cavoli tuoi. Lo so. Diciamo che c'è gente delinquente, gente che quello lì, il poveraccio, l'ha avuta proprio, ha perso tutto. Allora tu dai al costruttore i soldi, la maggior parte da approfittare, se non è che sia una persona onesta, ma ce ne sono, non si è detto un bel altro che ne hanno approfittato. Ma addirittura non solo quelli delle agenzie dei viaggi. Questo qui ha organizzato un viaggio a Palma di Mallorca. Mi hanno dato il tanto che dovevano dare, mi pare che allora erano in lire, mi pare che erano 4 milioni o 5 milioni, adesso non mi ricordo questa commessa. Una volta che hanno pagato tutti, lui ha preso e si è avviato. Si è appigliato tutti i canteri di là, si è appigliato. No. Sono cose insopportabili, sono. Ma dovevi mandare in bestia, vabbè, così lì. Cioè, ma riprendi qualche... Capana, riprendo per salutare, sono stanco. Una buona anna, tutte le migliori, ciao Gianni, ciao anche Antonio, ciao anche a Natalino. Tutte le prossime, dai. Cava cava, corretti da parte mia, ciao. Se non ve la vedi così, il sabato quando non andate a lavorare ve lo fate. Se no usi di crepa, credo mai da voi. Sì, va. Andrà bene, vai, ciao di nuovo. Fate un buon riposo, buon tutto, vai. E buon tabacco per domani. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Antonio. Ciao, gente che non merita di vivere, andare a rubare i soldi da uno che ha fatto sacrifici per comprarsi la casa. Questo animale che non è altro, guarda. Una vita lavorando per mettere da parte i soldi e poi faccia più disgraziato che ti rifura così. È bello che ci ha venuto una casa che va via già quasi pagata, finita quasi. Sono gli sbagli che si fanno. Poi uno che non lo sa, non bisogna mai mettere in mano a gente che può affidabile. Cioè, le cose devi fare tu e basta, nessuno si deve mettere le mani. Ehi, Marano, vedete che sa tirare le persone, capito? C'è proprio questo modo di fare che ti attira di tutto. Già lo so, già. Come se di una persona che non è stata attenta e ne hanno impegnato tutto, ma te sì. Se dipenderai, per colpa sua, per colpa di un'altra persona ancora, si è fidato e ne ha pigliato tutto, guarda un gatto. Diciamo che queste cose anche è un po' una questione di fortuna. Vabbè, a noi ci avevano promesso i marmi bianchi per dire ad avanzare delle finestre. E ci hanno messo quelli grigi. Infatti mia moglie li ha camuffati con quella carta che è simile al marmo. Cioè è un marmo fitto, adesivo, glielo metti sopra e sembra marmo. Chiappa. Vabbè, ma per quelle cartatine si può anche soprassedere, dai. Però la cosa, dai, cioè non stanno i buttiti. E i garage, ne vogliamo parlare? I garage appartenevano tutti a noi e loro dice che appartenevano a loro, al presidente della cooperativa, se ne abbiamo tutti i garage, un appartamento che dice che toccava a loro, non so che cosa. Ed era tutta la roba che aspettava a noi quella lì, se ne ha affittati, se ne ha venduti i magazzini. Insomma, sempre qualche cosa la fanno, però in linea di massima adesso godo le tue case. No, ma c'è tanta gente che la casa non ce l'ha avuta, pagato e non ce l'ha avuta. Questo qui ti sto dicendo che si è andato a abitare dalla suocera, c'erano anche i figli. Adesso non lo so se si sia sistemato o che cosa, però perché ha un buon lavoro, dico la verità. Lavora in un ufficio pubblico, quindi sta anche bene come stipendio, però fare il gruzzolo di nuovo di prima è un po' in salita. Ci vuole un po' di tempo. Ma poi solo a pensare, se ti dirà che mangi busto da basso, incassando a comprarmi la casa e mi rifurano, mamma mia, ti senti così preso in giro. Lo sai cos'hai anche, che in quei momenti lì l'uomo può reagire anche male. Dopo di quello può finire anche in due dietro le sbarre, perché può fare qualche fatia quando uno si trova così, magari con i bizzini, con la moglie, così, cioè, può arrivare a tutto. Ma un altro la vuoi sapere? Sì. È un amico che è stato ricattato dal costruttore, se valeva le chiavi della casa doveva dare tanto. Se non le vedeva fra due mesi, capito? E lui riceveva la casa perché aveva bollato l'altra, ha dovuto pagare, però dice al momento opportuno io lo sputtano. Sai cosa che trovano i brutti? Se trovano uno che ha il marrone sotto e dici, cos'è che non mi dai tu a me? Allora aspettate, non posso vedere io. Mi butta chissà cosa, vorrei che se tu non mi dai le chiavi di la casa, te lo posso vedere io a te. Dove non sei già e trovate pure in galera. Non è che sia così alto come dici tu. Comunque è un fanfarrone anche questo qui. Perché come l'ha fatto con questo amico mio, l'ha fatto con gli altri e tutti hanno pagato la tangente. Sì, non ti preoccupare che non lo denuncia. Secondo la cacciata riparra pesamente la faccia e dice stai zitto e dammi le chiavi. Capito, ha trovato gente che se non gli dava le chiavi stava in mezzo strada, cosa va a dire, chissà. Ma tu sì, io sono degli lati, però al momento opportuno poi, quando mi torno alla casa, è tutto tanto. Ci mettiamo tutti d'accordo, siamo già d'accordo, un bel po' di condomini e andiamo a denunciare. Cappatore, questa gente vorrebbe picchiata. Un'altra la voglio sapere. Allora, nel mio appartamento, noi siamo una cooperativa, quindi tutto il materiale che è stato comprato è stato pagato da noi, ci siamo sin qua. A me servivano delle mattonelle di riserva, non sia che facessi qualche lavoro e dovessi tappare di nuovo con le mattonelle, no? Magari dovessi lasciare le mattonelle e dovessi metterle nuove. Quindi cosa ho fatto io? Sono andato dal capocantiere e gli ho detto se potevo avere le mie mattonelle. Oh, me le ha fatte pagare a mercato nero. Io sono andato a cercarle da R, c'erano, ma il colore da un'infornata all'altra cambia, quindi ho dovuto prendere per forza quelle lì, se no si vedeva. Beh, non mi ha fatto né ricevuta né niente, poi ho saputo che lui non le poteva né vendere né nulla, quelle mattonelle erano le nostre, Praticamente spettavo una divisione, hai fatto tutti i condomini della roba che era avanzata, invece loro sono che avanzato si danno i 2 ebbi. Ma la vedete che vecchia, ne? Il mercatone non me l'ha dati, me l'ha fatti pagare i BDR. Profittano in tutto, con le mattonelle, me le ha tutte quante sfasciate con le... Mi sembra Bengamuro che non era manco cazzuraggio, è tutto sopra fra Bengamuro. Mi sta rampando tutti i mattonelli, Antonio. Non è stacca una, ne vara tutta la fila, la staccata male, come ha tirato, le ha buttato tutta la fila le mattonelle, le ho dovuto dare tutte le mattonelle, meno male ce le ha avvenute. Qua per carità, lasciamo perdere. A me me l'aveva indicato una persona, che ti dirò. Mi ha detto qua prendi questo che è venuto da noi, ci ha fatto dei bei lavori. Lui era praticamente l'imprenditore che comandava i muratori, c'era muratori, elettricisti, tutto quanto. Siccome il muratore che ha comandato invece non l'ha pagato come ha voluto, ci è venuto per un giorno, ha sfasciato tutto quanto per mettere la roba nuova. Mi ha lasciato tutto così, ha lasciato pure la roba, non è giunta lì da buca. Non serve a nulla. Tanto se posso vedere a fare un travaglio, ma io non sapevo ne manco in dei buoni di mani, non era buona niente, proprio era negato in tutto, ha messo le mattonelle, arriva l'ora di pranzo, ed era lì a dislivello, tutti fura, tutti gonfiati, arrivavano mezzo metro, mezzo centimetro in più delle altre. Ma non è non vale il dolce, Arturo, non ha fatto bene il massetto. Non sapevo fare quello lì, ognuno fa parte sua. Quando è arrivato ho detto scolciami tutto e chiamami un operaio come si deve, se no io non ti pago. E ti dico senti pure che mi sei preso il travaglio di brutto di me, dammi scusato la frase. Che poi ho telefonato alla persona che me l'ha consigliato e gli ho detto bravo sei stato a consigliarmi quel pasticcione, ma quello lì cosa ha fatto? Lo carriaggio o è cosa? È proprio il Gamur, no, perché con la Bigamur non mi pareva nulla, mi ha spermista ne manco, idraulico non ne salva ne manco di meno. E se non posso lavandino perdeva, è ritornato e perdeva di nuovo. Ecco qua, ascolta, vai Dini, vai Piazzini, vai. A chi non comprende nulla. Ma c'era anche un affarino, c'era. Ce n'è andato una fine. Ma sono qui e vi ascolto. Tanto sai, no? Che fatile! pensando che fosse una persona normale, che sapesse lavorare, invece si è dovuto mandare malamente, ho detto guarda ti do soddisfatto i soldi, proprio te li sto regalando perché non te li hai lavorati per niente. E come no, ho fatto tutto il lavoro, sì guarda che lavoro, non è livellato nemmeno l'entrata, niente, non hai fatto lasciare tutto male d'uso, siamo qua, ma proprio se ti faceva il lavoro ancora, da sussi, dopo è dovuto venire un amico mio a sistemarmi, mi ha tolto tutte le mattone e me le ha lavate. E me le ha messe lui, ma ha regolato l'arte, poi dice, poi forse non ha tutto, non ha cavato manco un garraglio da sotto, poi forse anche le mattone le alzano. Che ti gira, pagavi qualche cosettina in più, però lo vado a meglio visto, la ciccia, ma non ti incazzate nemmeno. Cosa ti sta parlando con Marco, scusa? Questo, a fine conti, chiamavi a Ghito e te lo fatevi fare a Ghito. A me lo faceva bene e non ti incazzavi neanche. Ma infatti. No, ma lo devo far fare a Luca sicuramente perché mi ha detto che mi avrebbe lasciato tutto rifinito, che avrebbe fatto un'arcata bella cose, e poi mi avrebbe verniciato tutto il bagno dopo che aveva finito. Tutto riverniciato da capo, me lo lasciava a posto come era prima. Non sbagli che si fanno. Invece le rifiniture me le ho dovute fare io, perché io ho buttato giù, praticamente c'era una porta che divideva dal lavandino al bagno, c'era l'antibagno e poi c'era il bagno. Questa porta l'ho buttata giù, però ho lasciato un pezzo, il pezzo di sopra, che era muro maestro, quindi l'ho dovuto lasciare per tenere bene, capito? E niente. Questa cosa l'hanno dovuto, quando hanno buttato giù la porta, la parte di sopra è rimasta un po' storta e cosa, capito, come l'hanno buttata giù, doveva essere incementata e livellata, no, di nuovo, invece l'ha lasciata in grezzo così. Questa. C'è chi l'ha dovuto fare, l'ho dovuto fare io. Non vedo. Cioè, mi ha fatto un proprio glamour, ha giocato meglio di chi si che ne va tu. Qua molte volte se sai che la persona non sa fare il vero, cioè fa fare un culo di 100 euro in più, qualche cosa in più, ma ci fa e basta, tanto se a marito non sa fare nulla, ti perde tempo e perdi sempre denaro, guarda in culo. Poi stava smontando una presa dove c'erano due interruttori più la presa, e ha detto aspetta, prima di smontarla prendi questo foglio di carta e segnati i fili come sono. No, non ho bisogno, l'isolo, si fa un pezzo di nastro, l'isolo, vabbè, ha pigliato isolato di fili, tutto là, andare a ripulire la cosa, mentre a buona la cosa, e mi ricala lui, non ho detto che non c'è problema, e non ho forse sbagliato di aspettare che le metto così, gira i fili, attacca a torna, ho detto vai dimmi, chiama l'elettricista adesso che lo fa piazzare, allora ho dovuto chiamare l'elettricista perché non capiva un capo. Ma due volte mi si è fatto la luce. Ma che cosa c'è? Ma cos'è la presa mi ha staccato? E ha dovuto staccare la presa perché ha dovuto mettere le piastrelle nuove, no? Ha fatto il buco attorno, e stava mettendo la presa nuova. E per forza l'ha dovuta staccare la vecchia, no? Però doveva guardare i fili come erano collegati, perché l'altra era nuova, sì, ma aveva le stesse funzioni, capite? Cioè, deve essere che gli ho uniti i fili, perché non è possibile. Se tu attacchi la presa nel muro, uno va da una parte e uno va dall'altra. Ti ho detto che c'erano altri due interruttori, più c'era la presa. Sicuramente non ti ha capito niente quello lì. C'erano dei punti, poi non so cosa, io ho detto segnati i colori con i punti, così almeno sai come attaccarli, no? Oi, oi, oi, provare a dare. E la fatta la... Se mia moglie mi ha detto, no, mandali in via, non me li fare più vedere, mi hanno fatto un casino tagliando le mattonelle dentro casa con la mola, che è stato, mi ha ripirato tutto di più, guarda. Ma si può dire, ma con ripirato. Cioè, è come che presenti ce ne hai? No, ma quando mai non si poteva punire sotto la bustiri, da ragazza sta a base, a tagliare i mattoni. Ma infatti, io quando sono tornato a casa mi sono questa polvere, mia moglie non la si intende, non ha detto. Sono condurato a casa e gli sono tutti subito, ma te l'ha fatto questo qua? Ha tagliato i mattoni, poi gli ha fatto tagliare dentro casa, ma cosa ne sapevo io? Gliel'ho anche detto, guarda che sta facendo un sacco di polvere, non li tagli più qua in casa. Mamma mia, cara. Tanto ha fatto un casino. Lo più caro si è buttato un mese che aveva in nero, ne tende, effetti per sempre più caro. E si infiltrava da tutte le parti. Ma l'aveva strangolato, guarda. Cioè dai mobili ne ha dovuto togliere i servizi perché la piena di arancione di cose, tutto meno di più caro. Prendere i servizi, tutto quanto, pulire, qua stava diventando scema mia moglie, ha detto, ma mai me l'avesse mandato quel disgraziato, ha capito, ed è praticamente preso parente con un amico, là. Caramba. Oh, è un ciappuglione, è stato brutto, di che ci abbassi le bolle. E poi ha avuto il coraggio che l'abbiamo chiamato per aggiustare la bandina che aveva piazzato lui che perdeva e ha voluto 20 euro di intervento. E non l'ha conto nemmeno. Ho dovuto chiamare il mio panino idraulico per fare il lavoro, ma ha detto ma chi è che l'ha fatto questa cosa? Ha cavato il tubo unito che l'ha da lui e tutto quanto, ha messo un tubo unico, veloce, l'ha piazzato, non perde più. Non capiva niente, non hai capito. E non vedo con 50.000 voce meglio. Fatto un bel di aggiunture di cose che non le comprendi a nulla. E poi andava a sollevare il capo della bandiera, lo sollevava, ma un casino fatto. Cioè, secondo me, quando ho lavorato col mio amico che mi ha detto così, aveva gli operai, lavoravano gli operai, quindi il lavoro gli hanno fatto bene perché magari gli operai sono buoni. Ma deve essere stato pure buono, mezzo vuoto, pure, cioè, secondo me no, cioè, anche con gli operai si comportava male sicuramente, altrimenti, cioè, cosa ne so. Però là c'è andata Ussi a lavorare, deve essere trovato qualcuno lì dava di più, la molla di tutti si è andata. Quello che è venuto un giorno qua, quello sì che era bravo. Era un maestro, era anziano, e lavorava un bel bene, in pochi minuti ha fatto tutto, ha lappato tutto quello che doveva buttare, il muro, ha tolto la porta, ha buttato il muro in pochi minuti. E dopo lui l'avrebbe detto, ma rimane così, no, poi gli faccio un'arcata se vuole, come vuole lì. E poi il giorno dopo ci fu tornato. Come vuole non l'ha pagato? Deve essere di voler dare poco, lui ha trovato un altro lavoro in un'impresa, dice che l'ha cercato per mani e per molti, l'ha telefonato, va, lui non rispondia. Poi la vena riposi ve l'ha detto, che ha trovato un altro posto a Ussi. Cazzo, no, vero tanto no. E doveva fare quello perché l'altro stava di merda. La gente va dove pagate più, poi questo era un maestro, era anziano, mi avrà avuto 68 anni, così. Il travaglio c'è già più a fare. Era veloce come un fulmine. Ah, guarda che a togliere la porta a buttare tutto il muro ci ha messo pochissimo. E tutto fatto perfettamente, non ha rotto la mattonetta. Magari se la giovano, sono tutti da un uomo di 60 anni. Che... lui aveva 45-46 anni, ma era un babasone, era di chi si chi, magari fida gli operai, non li paga, e mi fa che un trabaglietto si incascia tutti i dinari di un padrone, no? No. Senza far nulla però, non sa far manco niente. Ma lo si è messo a fare da fuori, ha fatto un casino. Ti figuracce ci fai, eh? Ti figuracce. Figuracce sono. Poi mi ha detto che il maschio non si deve girare. Invece quello l'ha girato. Verità. Con la paletta, due giratine di dare basta. Ma se non giro bene, se non riesco. Già lo so. Non vuole girare molto molto. Due cose così, giusto per mischiare un pochino e basta. E poi se lo lasci lì, tu la sera al giorno dopo, invece se lo giri, si va dentro su di la palla, non esce più. Scappa, sì, bisogna proprio un po' liquido. Infatti, ma lui non ne ha raschiato manco quello che c'era sotto, capito? Per quello le mattole sono alzate. Già l'ho preso. Quello invece ha preso, quel mio amico lì ha tutta la parte, meno male era ancora fresco, non ne usciva ancora. Ne la cavate tutti, la lavate in pressa, E come si dice, l'ha portata in giù, l'ha attaccata al rubinetto, se li ha tutte lavate giù. Dopo, una volta che le ha lavate, ne ha raschiato tutto quello che c'era in terra. E vero un po' di roba ancora, terra, il trucato, l'ha messo dentro un cartone, l'ha preso, l'hanno fatto di nuovo, cosa? Ma senti, non sono mosso di un millimetro come le ha messi, ma è già, per di più bene di così non le possiamo mettere perché ha fatto casino, è già dall'inizio, ha messo le prime mattone che tutte messe male, ne ha messo i corduli larghi, c'è uno stretto largo, non gli ha messo gli stecchini che doveva mettere. Peccato, se non vuole affarini ci sono per tenerle. C'è gente che non sa fare niente proprio. Ma carità. Bene anche gli stecchini. Nelle piastrelle vanno bene gli stecchini pure. Metti gli stecchini e li tieni. Poi una volta che è, dove ti messo lo stecchino, glielo ristucchi e via. Ma perché ne aveva smantellato? Ah, praticamente la porta l'abbiamo tolta perché c'era più luce, capito? Era più luminoso. E poi cosa ci facciamo? Per essere, per avere più spazio, abbiamo fatto. C'era più spazio senza la porta e via dicendo. Ha voluto fare così e così ho fatto. Ma purtroppo l'abbiamo dato in mano a gente che... da un garage, la borsa tutto giusto, non è che c'aveva la macchina sua, così l'abitato l'hanno affitto, quando ce n'era un bel abitato era caricato, c'è stato un anghietto in chimica e era stato al portone, ci dicendo cosa, ma non è bello lasciare quella roba dentro il portone, questo e quell'altro, burro niente. Questo momento ti sei dovuto mettere tu. Sì. Per fare le rifiniture del muro, sì, per forza, perché faceva schifo, poi ho tutto pitturato, dopo che ho fatto le rifiniture, l'ho pitturato pure. Ma come se dovuto cavare tu un garage? No, no, quello no. Quello si è cavato una macchina fitta, si era caricato Evi, solo che era lasciato una settimana lì. Scaricava le carriole, le cose... e poi le casarelli e ha fatto una montagna, è entrata dai rubusari. Infatti gli ho detto quello lì, ma io non posso pagare 50 viaggi, non ne faccio uno intero e via. posso fare la convenienza a te, non è che ti bruciare io con la roba davanti alla buccia, e io non cribbani. Mi ha fatto un viaggio per pagare solo 70 euro, perché un viaggio di cose 70 euro? No, non lavoravo più seriamente, no. Vuoi che quello lì non mi ha mai visto paletta in mano? Che la divisione Zecchi, ho visto quelli che hanno seppellito mio padre, che è morto vicino al cimitero, che ha detto a mia velocità facendo le cose, ma fatte bene, perfette, il cemento passato proprio perfetto, liscio liscio, sono proprio cemento. Ha tagliato il mattone, no, perché doveva mettere un po' di cemento, poi mettere i mattoni per chiudere, no? E poi doveva tutto il cemento davanti. Ha dato un colpo di pala, che sta tagliando perfetto. Ci stava giusto, giusto, giusto, adesso non so se è un colpo di canna che ha uno. Ma veloce però. No, non è colpo di canna, insomma, che si chiama professionalità. Ha dato un colpo di gazzola, appunto. Dritto dritto. Uno è professionista, che se travaglia, le fa di, beh, va, va. Ma ci ha messo pochissimo. Cappa. Sì, sì, sì. Conosco una persona che è un po' così, però, quando va per se travaglia, è perfetto, guarda, quando fa quel lavoro di muratura, eccetera, eccetera, si sa fare veramente bene. Ma poi c'è che la passione proprio, ha la passione di fare queste cose, solo che anche lì al cimitero ce l'ha fatto pagare, siccome c'è la strada asfaltata che passa, no? Ce l'ha fatto pagare sia per chiudere e sia per fare l'asfalto, tu l'asfalto fatto ne hai, altrettanto loro. Ma bisogna passarci questa agenzia funebre però, perché non è possibile, noi abbiamo pagato per farlo fare, per chiudere tutto normalmente, perché dice che il primo, sono tornato nell'agenzia, che l'ho detto, ma detto che il primo periodo lo fanno perché magari c'è l'assestamento e cose, mi dico che lo lasciano assestare bene dove hanno fatto il buco, poi li mettono l'asfalto sotto. Però prima vogliono farlo un po' assestare, mettere un po' di cemento se ci vuole e poi li mettono l'asfalto. Poi sta ancora aspettando a farlo. Cioè, dove sei andato per fare? Che vuoi, avete pagato? Beh, mi sembra utile. Ahia, anche se hanno fatto un bel funerale tutto quanto, ma diciamo che queste cose qui non si devono perdere. Certo, giustamente. Ma quello basta passarci un giorno. Sta fatto Cilano con Maria Musina, che è? Ma Maria Musina è Musanto. Cilano si l'ha fatto. Musina, dai. Sì, ma è morta. Ma l'agenzia che è sempre? La sta curando un altro proprietario. No, no, Maria Musina ci servivamo nella famiglia quando era viva lì, perché era la sorella di Don Mazzoni. Don Mazzoni è il prete che a me mi ha battezzato. Perché? No, comunque c'è ancora, io a Bugia che c'è, sembra che la gente sia la sorella, non so, qualche parente. Adesso non so bene, ma c'è sempre. Anche lui mi pare sia morto da Mazzoni. Oh, non lo so chi è, no. Mio fratello, è quello con la cicatrice, vicino alla bocca. No, boh, no, non so. Non lo so. Comunque, diciamo che non sono cose belle da vedere cose, ma fa un bel funerale cose sul Silano, fanno del bel funerale, c'è una persona in gamba tranquilla, non come certi vecchini che si pone in arredì, la dà c'è il bus e cose, c'è anche fastidio, Devo fare la massima serietà, come deve essere. E ve ne so se si chiama i meni arredenti, mi vedi. Addirittura quello lì che c'era da noi c'era un'altra morta lì nel posto e c'erano quelle donne che piangono, che dicono le cose, sono pagate bambini, no? E ha detto adesso basta, cavolo, devono avere rispetto anche per i parenti degli altri morti, non possono stare così tutto il giorno a rompere le scatole. Stasera ho fatto, ti saluto, ti auguro una buona notte e ce ne risentiamo tutto domani alle prossime. Ciao ciao. Ciao, ci sentiamo, buona notte, dai. A prima. Ciao, un pochettino di stanchezza. Ciao ciao. Si intende che si ringhi in tempo. Ciao, buona notte.